quello che è stato è stato. Non c'è bisogno che ti dico quanto ti ho cercato. Mi sono preso l'offesa e mi sono umiliato. Ma quello che importa è che adesso è tutto cambiato. Quello che è stato, non c'è bisogno che ti dico quanto ti ho cercato. Mi sono preso l'offesa e mi sono umiliato. Ma quello che importa è che adesso è tutto cambiato. È andato tutto in rovina, questo rapporto inquina. Non trovo più la mia regina, quanti discorsi su quella panchina. Ci svegliavamo incazzati la mattina, io non ci stavo, rimanevo passivo e mi dicevi bravo. Lo so che con te ho tutto sbagliato, ti volevo e dopo un secondo ti avrei sparato. Perché mi urlavi contro, tu sei malato. Per te, quello che è stato, non c'è bisogno che ti dico quanto ti ho cercato. Mi sono preso l'offesa e mi sono umiliato. Ma quello che importa è che adesso è tutto cambiato. Quello che è stato, non c'è bisogno che ti dico quanto ti ho cercato. Mi sono preso l'offesa e mi sono umiliato. Ma quello che importa è che adesso è tutto cambiato. Ma questa te la dedico perché sono un caso clinico. Ti ho lasciato andare mentre tu cercavi di amare. Facevi di tutto per farti notare, ma io ero troppo preso dal mio da fare. Non ci sono più quei giorni, li dovrò buttare. Il silenzio ti faceva tremare, ma non rispondevo perché non avevo più voglia di litigare. Una parola sbagliata e ti potevo insultare. Ormai non si trova più la ragione. Mi guardavo allo specchio e facevo impressione. Non ero in fondo il tipo che volevi. Ero diventato solo quella persona che temevi. Sì, sì, sì. Oh, oh, oh. Per te, baby. Quello che è stato, non c'è bisogno che ti dico quanto ti ho cercato. Mi sono preso l'offesa e mi sono umiliato. Ma quello che importa è che adesso è tutto cambiato. Quello che è stato, non c'è bisogno che ti dico quanto ti ho cercato. Mi sono preso l'offesa e mi sono umiliato. Ma quello che importa è che adesso è tutto cambiato. Quello che è stato, non c'è bisogno che ti dico quanto ti ho cercato. Mi sono preso l'offesa e mi sono umiliato. Ma quello che importa è che adesso è tutto cambiato. Quello che è stato, non c'è bisogno che ti dico quanto ti ho cercato. Mi sono preso l'offesa e mi sono umiliato. Ma quello che importa è che adesso è tutto cambiato. Prendi questo foglio, qui dentro non c'è nessun imbroglio. Aspetta, io non ti spoglio, scavalchiamo questo scoglio. La nostra storia è stata soltanto un abbaglio. Errori su errori, giornate tristi e accordi minori hanno stimolato la mia mente quel giorno a buttarti fuori, separando per sempre i nostri cuori. Yeah, sì, sì.